Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Una ventina di minuti di tempo sono assolutamente sufficienti per fare il punto della situazione su una questione che sta molto a cuore a molti risparmiatori italiani, da quello che abbiamo potuto apprendere in questi giorni. Allora, dopo Lehman Brothers, le polizze e le obbligazioni legate alla banca americana fallita in settembre, dopo le perdite subite in borsa da diversi mesi a questa parte, adesso i risparmiatori a livello internazionale, ma ce n'è anche una bella fetta di italiani, sono alle prese con un'altra gatta da pelare, vale a dire il fallimento possibile, non ancora formalmente ufficialmente stabilito, della casa automobilistica americana General Motors. I piccoli creditori americani sono letteralmente in rivolta contro la ristrutturazione aziendale che è sponsorizzata dall'amministrazione Obama e che a questo punto non esclude il fallimento, anche se nella modalità prevista dalla legge americana, appunto il Chapter 11. Cosa vuol dire tutto questo? Abbiamo scoperto perché ci hanno scritto che ci sono diversi risparmiatori che hanno sottoscritto anche in Italia, come vi dicevo, obbligazioni General Motors e che hanno ricevuto da qualche giorno una lettera della propria banca nella quale li si informa di una proposta di conversione delle proprie obbligazioni. Oggi cerchiamo di capire cosa devono fare, magari anche cercando di stendere un vademecum sulle regole per investire in obbligazioni societarie, dato che ora tra l'altro sul mercato ci sono anche delle opportunità molto appetitose in termini di rendimento. E allora questo lavoro lo faremo stamattina con Carlo Mazzola, presidente della società di consulenza No Risk, e Antonio Tognoli, vicepresidente dell'AIAF, l'associazione degli analisti finanziari. 800 24 00 24, avete comunque l'opportunità di intervenire se vi trovate in questa situazione. 349 238 6666. Andiamo subito con la nostra scheda. Sono al centro della cronaca da mesi. Emesse a raffica dalle aziende alla continua ricerca di capitali freschi e ricercate da risparmiatori a caccia di rendimenti sempre più attraenti. Si tratta delle obbligazioni bancarie e societarie, strumenti che negli ultimi anni sono letteralmente esplosi anche presso il pubblico al dettaglio. E se fino a tempi non sospetti il loro rendimento faceva gola a molti, dopo i recenti crack che hanno coinvolto primari istituti e società, iniziano a impaurire i risparmiatori. Così, in attesa che si alzi il velo sulla vicenda Italease e sulla sorte degli obbligazionisti della banca, oggetto di un'OPA da parte del Banco Popolare, al centro delle cronache sono finiti in questi giorni i possessori di Bond General Motors, il colosso automobilistico americano ormai sull'orlo del fallimento. La possibile insolvenza del gruppo di Detroit, infatti, seppure pilotata, potrebbe rappresentare una notizia decisamente negativa per i possessori di obbligazioni, che subirebbero una forte riduzione di valore rispetto al nominale iniziale. Ed è proprio nel contesto di un piano di ristrutturazione del debito che rientra la proposta lanciata da General Motors ai propri obbligazionisti, che entro il 26 maggio dovranno decidere se aderirvi o meno. L'offerta riguarda 4 serie di obbligazioni in euro quotate alla borsa del Lussemburgo e 24 bond, convertibili e non, denominati in dollari. Ai titolari di queste obbligazioni saranno offerte 225 azioni ordinarie General Motors di nuova emissione ogni 1000 dollari di valore nominale dei bond. La casa automobilistica di Detroit cancellerebbe così con un colpo di spugna 27 miliardi di dollari di debiti verso gli obbligazionisti, che diventerebbero i nuovi azionisti del gruppo, con i rischi conseguenti. Se l'operazione dovesse fallire per General Motors, si spalancherebbero le porte del Chapter 11 o il ricorso a un'altra procedura concorsuale che potrebbe lasciare gli obbligazionisti del tutto a bocca asciutta o quasi. Diversa invece sembra essere la situazione per i sottoscrittori di Bond GMAC, la ex finanziaria del gruppo trasformatasi in banca. Nonostante i timori di molti investitori nelle settimane passate, infatti, non sembra che l'eventuale Chapter 11 di General Motors avrà ripercussioni negative su GMAC. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Prima di sentire o Carlo Mazzola o Antonio Tognoli, vorrei sentire Costantino, il nostro ascoltatore che ci ha scritto. Lo abbiamo interpellato questa mattina per raccontarci la sua situazione. È arrivata la lettera della banca. Costantino, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ascoltatore, grazie per avermi dato la possibilità. La cosa che è molto più allarmante è che in Italia, in questi ultimi disgraziati eventi, non si riesca da nessuna parte a trovare delle grosse informazioni circa queste catastrofi che di tanto in tanto esplodono. Beh, non era però esattamente una novità. Sì. No, Costantino, mi scusi, non era esattamente una novità che General Motors navigasse in cattive acque, non ne parliamo da ieri. Che qualcuno in queste ultime settimane si è intervenuto con un teleinformativa per farci capire cosa sta succedendo, è un fatto, ahimè, abbastanza allarmante. Va bene. Da quanto tempo queste obbligazioni, Costantino? Da un paio di anni, 2 o 3 anni. Da 2 anni. E adesso è arrivata la lettera della banca nella quale le chiede di fare lo scambio, quindi le... Sì, ma chiaramente che non farò, nel modo più assoluto, ma per un semplice motivo, volevo chiedere anche i suoi esperti che sono in studio, anche perché dopo la banca mi informa, ed è qui, presumo che sia vero ciò che mi dice la banca, perché mi informa che dopo la conversione, trattandosi, avendo io in mano delle obbligazioni in euro, la conversione grosso modo dovrebbe essere 292 azioni per ogni 1000 di nominale posseduto. Sì. Queste stesse azioni, una volta avute, vanno raggruppate da 1 a 100, ossia dovrei avere grosso modo 3. Nel caso specifico, visto che non è uno ogni 300, sono uno ogni 292, ne avrei 1 a 2, quindi di 1000 di nominale ne prenderei 2 azioni. Ora, in tutta onestà, mi sembra una grossa stupidaggine, chi l'ha inventata, eccetera. E qui è la prima conferma dei suoi esperti. Seconda domanda, ne farei 3 di domande. Sì, se può rapidamente, perché devo anche dare la linea. La seconda domanda è, cosa pensano loro di quello che può eventualmente succedere, se andremo in chapter 11 oppure tutti gli obbligazionisti aderiranno al 90%? E l'ultima domanda è, come fa il Tesoro americano a venire in possesso del 50% di azionario e i sindacati americani a essere in possesso del 40% azionario? Adesso, guarda, siccome abbiamo poco tempo stamattina, Costantino, magari io, se lei mi permette la terza domanda, esonerei i miei ospiti, vorrei darvi un po' più indicazioni concrete invece su questo piano di conversione, visto che dovete tra l'altro operare la scelta, perché le banche hanno chiesto di farlo chi entro addirittura il 20 maggio, per cui per qualcuno non siamo in tempo neanche a dare suggerimenti, chi qualcuno il 22, lei se non sbaglio entro il 26. Quindi mi perdoni. Allora, Carlo Mazzola, Norisk, andiamo subito a commentare la telefonata di Costantino, che ci ha chiamato poco fa. Lui ha ricevuto, come molti altri, la proposta di conversione di obbligazioni GM in possesso in azioni nuove. Allora, questo piano lei l'ha definito un piano con le spalle al muro praticamente per gli investitori. Sì, purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione di una società che è andata gradualmente peggiorando e adesso è critica, sull'orlo del fallimento. Purtroppo azionisti, obbligazionisti, anche le persone che lavorano dentro hanno poche strade da seguire. Allora, da una parte ci può essere la strada dell'ascoltatore che dice: io quasi per principio ho un problema di una spezzatura molto piccola, non aderisco. Il prezzo delle obbligazioni sul mercato adesso è circa 7-8 centesimi, quindi se uno le vendesse forse alla fine gli converrebbe fare queste, liquidarle. Io ritengo perché comunque il rischio che i rimborsi non avvengano, no, perché uno può dire speriamo in una procedura, diciamo che il prezzo di mercato è anche poi un'ipotesi di quanto potrebbe essere rimborsato in un eventuale chapter 11 o un'operazione così, ma qui la società non ha soldi, è intervenuto pesantemente il governo, qui tutti devono mettere le mani al portafoglio, chi più chi meno. Ovviamente gli obbligazionisti e gli azionisti della vecchia generazione sono quelli che saranno più penalizzati. Possiamo discutere se sia stato un investimento giusto, sbagliato, rischioso, questo poi uno può scegliere quando l'ha comprato. Oggettivamente adesso, un po' anche come era successo con la conversione dell'Argentina, alla fine conviene convertire personalmente, dico così, e vedere cosa succede, perché qui si rischia di restare veramente con in mano della carta che non varrà più niente. La nuova carta varrà poco, ma almeno potrebbe valere qualcosa e potrebbe essere facilmente alienabile sul mercato. Questa è la nostra opinione. Questa è l'opinione. In ogni caso, tra l'altro, il nuovo azionariato vedrà i vecchi obbligazionisti che avranno una quota del capitale 10%. Del 10% della società. Certo, e l'1% dei vecchi azionisti. Quindi, nella realtà dei fatti, è un nuovo immissione di denaro fresco. Non si può neanche pensare che il governo americano, che deve comunque dare la garanzia di finanziare la società nel 2009 per le nuove esigenze economiche, perché da una parte cancelliamo i debiti, ma non è una società che tira fuori, guadagna tantissimo, vende, è comunque una società che ha delle patologie aziendali, un problema di contesto economico. Ricordiamoci che l'economia mondiale sta andando molto male, adesso si parla di ripresa nel 2010, ma la produzione industriale scende del 20%, i PIL sono in calo, il settore auto è un settore che soffre questo tipo di momenti di contesto economico, e quindi ci si trova investiti in un qualcosa che ha poche aspettative breve, nel breve termine, uno deve veramente decidere che cosa fare. Allora crediamo che la situazione il meno peggio sia aderire a un'operazione di concordato e di cambio e vedere che cosa succede, premesso che è un investimento che è andato molto male. È andato molto male, e questo comunque quando si opera un investimento che probabilmente contempla un alto rendimento in prospettiva è una, come dire, ipotesi che si deve anche mettere in cantiere, Mazzola. Sì, e devo dire che anche dalle lettere che abbiamo visto non ci sembra sostanzialmente un investimento in cui gli obbligazionisti si sentano frodati. È un investimento in cui si è andato male e in cui uno adesso cerca di capire come uscirne. È diverso altri casi, magari proprio delle esperienza italiana più recente, in cui sì, dice ci sono stati dei falsi in bilancio. Poi qui è sostanzialmente un settore esposto alla congiuntura economica e le obbligazioni hanno sofferto molto. Certo, l'ammontare delle obbligazioni è molto elevato. Dopo è sempre molto facile fare le considerazioni, no? Come quelli che non hanno comprato in borsa 2 mesi fa dicendo ma era tutto regalato. Adesso oggettivamente è una criticità da cui noi consigliamo di uscire nel modo più indolore possibile, sapendo comunque che è un'obbligazione che, se adesso fosse venduta sul mercato, vale 6 o 7, quindi ti dice che hai in mano quasi carta no, straccia. Tra l'altro, quello che volevo, ovviamente noi, come dire, facciamo anche abbastanza frequentemente il rapporto, il paragone con una situazione Parmalat nel nostro paese. Quello che io voglio dire, insisto molto su questa cosa, e l'ho detta anche quando per esempio abbiamo commentato le vicende di Alitalia, è che comunque questa società naviga in cattive acque, lo ribadisco, da diverso tempo. Allora, c'è un'ascoltatrice che ci scrive: anch'io avevo le obbligazioni GM, le ho vendute quando si evidenziarono le prime difficoltà. Detto questo, non perché ognuno appena intravede delle difficoltà, devi sapere che comunque la situazione può evolvere in un determinato modo, come è successo per Alitalia. Io così contesto anche un po' una mail di un altro ascoltatore che ci ha espresso la sua, come dire, filosofia di investimento rispetto ad un titolo come questo. Lui ci dice esplicitamente che l'ha fatto proprio perché rincorreva l'alto rendimento, dato che il presidente americano aveva detto che avrebbe salvato questa società, un po' come è successo da noi con Alitalia, e adesso chiaramente si trova nella fretta di dover decidere se aderire appunto a questa conversione. Tutto questo, Antonio Tognoli, vicepresidente dell'AIAF, l'Associazione degli Analisti Finanziari, cosa ci insegna? Quando ci interessa un'obbligazione societaria, quale criterio deve muoverci verso questo investimento? E le chiedo, oggi ci stiamo soffermando sul settore auto, le regole secondo lei in questo particolare momento economico? Prese, nel senso che il rendimento che comunque ti offrono, che sia banca o che sia corporate o che sia un'impresa, che si chiami auto, che si chiami qualcos'altro, ovviamente non può prescindere da 2 considerazioni fondamentali. La prima è la struttura generale dei tassi di interesse, cioè se i tassi mediamente sono al 3%, e ti danno il 15, evidentemente la differenza è un premio per il rischio, è un rischio che uno si accolla, nel senso che dice bene, io mi aspetto un rendimento molto elevato, però è chiaro che devo sapere che sto sopportando un rischio molto elevato, e questo sicuramente nessuno regala nulla. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione da fare: attenzione quando propongono operazioni urgenti, cioè devi farlo, non infatti, devi farlo velocemente, perché in finanza di urgente non c'è nulla. Prendete tutto il tempo assolutamente necessario per decidere, per guardare. C'è in realtà poi un grosso gap informativo, nel senso che se questo tipo di obbligazioni sono offerte agli investitori istituzionali e professionali, è chiaro che questi hanno tutti gli strumenti per poter valutare e considerare quale possa essere il connubio rischio-rendimento. Se sono offerti non agli investitori istituzionali ma al retail, ecco che allora c'è un gap informativo da colmare. No, stavo riflettendo sulla indicazione che ha dato sul non prendere decisioni affrettate. Quando in genere ci propone la banca un'obbligazione, in genere i collocamenti durano però un determinato arco temporale, quindi magari a volte la fretta è determinata da quello. Non è detto che però un'obbligazione si debba sottoscrivere in fase di collocamento, la si può prendere anche in un momento successivo se non ci convince l'investimento, Tognoli. Assolutamente, poi in ogni caso fatevi dare il prospetto informativo che l'emittente è obbligato a fornirlo. Andiamo a consultare. Mi chiedo un prospetto informativo su un'obbligazione GM magari consegnato 2 anni fa, che valore potesse avere, che valore abbia oggi, che dice? Certo, questo sicuramente, ma insomma, uno anche per cercare di in qualche modo prevenirsi per il futuro, fatevi dare il prospetto informativo, andate a verificare il prospettino dove si fa il confronto con le relative obbligazioni dello stesso rating e guardate se il rendimento è decisamente più alto. Se è così c'è un rischio sottostante, evidentemente. Certo, Mazzola, ho un minuto di tempo purtroppo, io però magari vi rimetto insieme al più presto, forse non potremo più parlare di General Motors, ma magari ci torneremo anche. Le chiedo solamente un'ultima un'ultima indicazione. In questo momento, lo dicevo in apertura, sul mercato proliferano molte emissioni obbligazionarie che hanno dei rendimenti in prospettiva molto allettanti, quindi sono una tentazione notevole per molti risparmiatori. Come ci muoviamo questo mare? Ci muoviamo sapendo che rendimenti a doppia cifra, visto che siamo anche vicino all'ora di pranzo, in finanza si dice sempre non esistono pasti gratis, anche se un presidente ti garantisce che poi la società verrà salvata, se un'obbligazione rende molto ci si porta in casa dei rischi di fallimento sostanzialmente, perché quando l'obbligazionista è penalizzato non viene rimborsato il proprio capitale. Quindi adesso, per chi per esempio ha sottoscritto una GM 2 anni fa, i rendimenti proposti quali erano? Dunque, 2 anni fa, adesso non ricordo, erano superiori ai tassi di mercato, perché comunque quando ci si allontana dal triplo A si sconta sempre un rischio. Adesso quello che voglio dire agli obbligazionisti, il rischio è ben remunerato, cioè si può, per fortuna, si può guadagnare molto rischiando anche un po'. Grazie molto, e anche per la pazienza, per aver ascoltato insieme a noi la prima parte dell'assemblea di Confindustria, ad Antonio Tognoli e Carlo Mazzola. La borsa intanto è negativa, Piazza Affari perde l'1,36%. Salvadanaio torna domani, buona giornata. Salvadanaio. We'll be right back.